24 mattino. Siamo qui allora alle 8 e 20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, è il giorno, è la settimana in cui la Spending Review dovrebbe entrare nel suo clou con Mister Mani di Forbice, Enrico Bondi, pronto a tagliare, si fanno le cifre, 8 miliardi, 9 miliardi, certo per una spesa pubblica di 800 miliardi. Magari è poco, però è da giorni, da settimane che si parla di questo tema, qualcosa dovrebbe concretizzarsi ora. Attenzione al pubblico impiego, la pubblica amministrazione, perché oggi ancora dettagli sul Corriere della Sera, per esempio. Si parla di taglio degli statali, via un dirigente su 5, il 10% dei ministeriali, qualcosa meno di 10.000 entro l'anno e 80-90.000 entro il 2014. Questa è l'idea di tagli. Oggi l'Unità titola "Basta tagli alla Tremonti", e questo in prima pagina. E i sindacati sono, se si può usare questa espressione molto molto colorita, sul piede di guerra, sono pronti a dare battaglia. Saluto il segretario della CISL Funzione Pubblica, Giovanni Faverin. Buongiorno, buongiorno Faverin. Buongiorno. Tra l'altro, ma è stato rinviato i vertici con Monti? Oggi dovevate incontrare a Palazzo Chigi, immagino di sì, saranno domani. Sì. È rinviato a domani mattina alle 9. Rinviato tutto a domani mattina. Mi lasci salutare anche Claudio Borghi, editorialista del Giornale, docente anche di economia politica. Buongiorno Borghi, ben ritrovato. Buongiorno. Buongiorno. Allora Faverin, siete davvero arrabbiati? Che cosa succede sui tagli agli statali? Che cosa temete da parte di Mani di Forbice Bondi? Io l'ho definito così. Ma noi temiamo che anche questa volta, dopo un paio di mesi in cui ogni ministero doveva portare la sua ricetta di risparmio, temiamo che si arrivi a un taglio dei servizi, del personale e dei dirigenti che servono. Cioè è opportuno delimitare il perimetro della pubblica amministrazione laddove non fa servizi adeguati, laddove genera degli sprechi, laddove non è in grado di essere veloce, di qualità per le imprese e per il cittadino. Ma bisogna anche considerare da questo punto di vista che sarebbe schizofrenica una manovra che prima chiede di rimanere in pensione, di rimanere al lavoro 4-5 anni di più e poi magari fa un perimetro e decide che chi ha 60 anni e magari serve, ed è una professione che serve per un servizio innovativo, magari per la ricerca, magari per i brevetti, magari per un ministero più efficiente, invece è obbligato ad andarsene da oggi e domani e a prendere l'80% dello stipendio. Cioè è la ricetta che non va bene, è un malato che si porta in sala operatoria domani senza aver fatto veramente una radiografia e capire qual è il punto che consente di correre di più ed essere più adeguato. Cioè temete i cosiddetti tagli lineari alla Tremonti, oggi titolo all'Unità, non so se servo a lei come assist. Sì, sono tagli lineari con un grande rischio che vanno a tagliare le attività e i servizi che invece possono servire. Allora, ripeto, c'è un paese che ha bisogno di fare una revisione reale. Facciamo un esempio: troppi livelli istituzionali, si possono migliorare le aree vaste, quindi sostituire province a grandi province e lì riorganizzare tutti i ministeri. Allora sì, in questo modo si possono avere le meno province periferici, si può delimitare il periodo dei costi, unica centrale di acquisti, più attenzione a non duplicare i dirigenti, sì, come è avvenuto in 20 anni di politica, ogni politico che arriva costruisce un dirigente nuovo, ma attenzione a tenere i dirigenti bravi e capaci, quelli che in questi anni hanno tenuto in piedi la fretta del servizio. No, lei cita le province, lo fa apposta, cosa fa? No, le province, ma è una cosa intagliabile, è stato certificato, insomma ancora si proverà, ma le province in Italia, tagliare le province è un qualcosa di... è un mantra che sentiamo da non so quanto tempo. In ogni caso, Claudio Borghi, le preoccupazioni del sindacato della CISL, che sono un po' le preoccupazioni anche della CGIL, la Funzione Pubblica, sono preoccupazioni legittime? Cioè è arrivato Monti a utilizzare gli stessi strumenti tanto criticati nel passato, dei tagli lineari, oppure bisogna fare uno sfoltimento abbastanza generalizzato? Vabbè, sono legittime dal loro punto di vista, perché giustamente devono tutelare i loro iscritti, e dall'altra parte però basta che si sappia che ogni volta che si spellano le mani per i successi di Monti, poi dopo si andrà a finire lì, ma non tanto perché Monti sia abile nel fare delle cose che devono essere fatte. Io sono il primo a dire che la spesa per la pubblica amministrazione e per gli statali deve essere tagliata. Bisogna vedere quando, nel senso che se noi per dire oggi, faccio un esempio, dimezziamo gli statali, no? Andiamo per, okay, per assurdo, sì, perché il piccolo deve valere anche per il grande. Li dimezziamo, tutti per strada, siamo in recessione, che cosa facciamo? Cioè, ci vorranno degli strumenti flessibili, vale a dire ridurre la pubblica amministrazione, ridurre le assunzioni clientelari in eccesso e così di questo tipo, possibilmente quando questi possono essere riallocati. In questo momento noi siamo in recessione, se io licenzio qualcuno questo è per strada, per cui bisogna stare molto attenti. Eppure tutto quello che l'Europa ci chiederà e ci spingerà a fare, perché abbiamo visto lo stesso copione con la Grecia e dalle altre parti, va in quella direzione, vale a dire ci stanno dicendo di tagliare gli stipendi. Questo va per gli statali, vorrà l'idea di essere anche per il privato, ma ci dicono tu vuoi essere competitivo, benissimo, taglia gli stipendi. Ed è sinceramente almeno più efficace a tagliare gli tagliare gli stipendi degli statali? Si chiederanno l'arrivo obbligato di un'Italia che sta nell'Europa, se vuol cercare di accettare la sfida finta della Germania, perché tanto è vinta in partenza, ma se vogliono cercare di accettare la nostra sfida, diranno tu devi essere competitivo nei nostri confronti, e come fai a essere competitivo nei loro confronti? Devi tagliare lo stipendio. Ed è quello che hanno chiesto di fare poi dopo in tutti gli altri paesi, e allora a un certo punto vedrete che l'arrivo sarà quello, ma non soltanto per qualcuno, per 20.000, per 50.000, chiederanno di tagliarlo per tutti. Beh, insomma, questa, non so se questa ricetta, Faverina, ieri si è parlato anche di possibile congelamento della tredicesima, si è parlato di tagliare il buono pasto, credo che scenderà per tutti a 7 euro, l'idea di toccare nel portafoglio e di ridurre lo stipendio dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, come l'accoglie Faverin? Ma credo che sia un altro errore, perché bisogna tener conto che i pubblici dipendenti hanno fatto un rinnovo del contratto nel 2008-2009 a metà stipendio, quindi metà dei privati, e dal 2010 sono senza rinnovo contrattuale. Lei raramente troverà qualcuno dei dipendenti pubblici che si lamenta di avere lo stipendio bloccato di fatto da 5 anni, e credo che sia un contributo che è stato chiesto ai dipendenti e che è stato sopportato comprendendo le ragioni del Paese. Ora, tagliare ulteriormente gli stipendi pubblici è un errore madornale, perché mette in condizioni 3 milioni di famiglie, che quindi hanno qualche altro familiare, quindi almeno 9 milioni di persone, di vedersi ancora più in difficoltà per l'aumento delle tasse che c'è stato, la crisi e quindi anche i consumi. Credo che sarebbe una ricetta che non serva. Le faccio un esempio: sono già diminuiti di 110.000 i dipendenti negli ultimi anni, eppure nell'Europa, nei mercati, hanno considerato questa diminuzione, che è sempre 1 milione in meno il totale dei dipendenti pubblici rispetto alla Francia e 2 milioni rispetto all'Inghilterra. Allora, io credo che la ricetta non serva, che sia sbagliata, che si debba chiedere più produttività, un rapporto un dipendente, un dirigente e 7, 10, 20 dipendenti è troppo alto, servono meno centri di spesa, abbiamo 10.000, è una famiglia, la pubblica amministrazione, che ha 10.000 centri di spesa, come se in una famiglia, anche un neonato, potesse usare il bancomat e poi se ne accorge la Corte dei Conti l'anno dopo. È sbagliato il sistema di spesa, ha ragione. Però lei parla di produttività, ma anche oggi leggevo, non so su quale giornale, credo il Corriere della Sera, che quando si tratta di valutare la produttività e il merito, i premi della pubblica amministrazione, tutti avanti in cavalleria, cioè non c'è una vera scelta, una vera cernita tra chi è produttivo e chi merita il premio, chi invece non lo merita. Guardi, io da questo punto di vista sono sincero, è normale che ci sia una certa ritrosia a farsi fare una pagella. Io però ho capito, come mai? No, cioè, voglio dire, se si parla di produttività vuol dire anche premiare il merito, no? È una ritrosia, non dico che è giusto. Io credo che come in un'azienda, come in una multinazionale che fa servizi, si valuta il processo e il prodotto, il servizio che si va a fare, e ci sono dei dirigenti preposti a manutentare questo tipo di misurazione. Noi abbiamo sempre obiettato una cosa, che è giusto, anzi vogliamo aumentare la produttività. Chi dice che non è d'accordo sbaglia, perché va contro i pubblici dipendenti e contro il servizio pubblico, che è nata per garantire alla comunità una tutela, una presa in carico. Noi diciamo soltanto che si deve valutare il processo e il prodotto. Quindi abbiamo tanti dirigenti che dovrebbero spiegare, mettere più trasparenza, come mai un'amministrazione, è stato fatto proprio la settimana scorsa, la SOSE ha cominciato a pubblicare, la commissione prevista per i costi standard, ha cominciato a pubblicare quanto è il costo di un collega della polizia locale di un comune, e ci sono differenze da 1 a 150. E quindi questo come fa un sindaco o un singolo dirigente andare a spiegare ai cittadini con così poca trasparenza come mai? Ma lei crede se a Cosenza, per esempio, ha scoperto che il costo standard dei vigili urbani, ne avevamo parlato qui in rassegna stampa, il costo standard dei vigili urbani è 100, a Cosenza si spende 130, per dire, a Milano 80, ma ci sono dei comuni appunto dove si arriva a spendere 30 volte il costo standard. Crede che in questo comune verranno razionalizzate queste spese? Non c'è altra strada, perché non c'è altra strada. Io vorrei essere ottimista come lei, nel senso. No, ma io aggiungo una cosa: sa perché finora non è stato fatto così? Perché ci si affidava a leggi, a riforme, a circolari, a vigilanza della funzione pubblica, della Corte dei Conti a posteriori. È sbagliato dopo che c'è un tumore, è inutile andare a dire dovevamo prevenirlo. Il punto sul quale io credo molto è che i nostri sono enti che hanno troppa poca trasparenza. Sì. Il cittadino, l'imprenditore, lo studente non può entrare come in una casa di vetro in un'amministrazione per domandarsi perché questo servizio c'è, è così in ritardo, costa. Serve la pressione sana dei cittadini in modo che quei dirigenti da Cosenza a Milano, nel servizio che è inefficiente, non possono dire non è colpa mia, è stato il sindaco della precedente amministrazione, ma si diano da fare insieme alle persone per rendere più efficiente, più pronto, più di qualità, più produttivo il sistema. Non può essere altrimenti, vale, perché sono le tasse dei cittadini. Sì. E siccome noi paghiamo molte più tasse, da questo punto di vista il dipendente pubblico si sente truffato due volte, perché paga tasse alte, ha i contratti bloccati, non c'è dubbio. Ed è e i servizi non sono da fare per migliorare i servizi. Sì, i servizi non sono dei migliori. Tagli, la settimana in cui Enrico Bondi, il super commissario, userà le sue forbicione, a meno così pare. Domani gli incontri con le parti sociali dovevano essere oggi. Ne stiamo parlando con il segretario della CISL Funzione Pubblica, Giovanni Faverin, con Claudio Borghi, editorialista tra l'altro del Giornale, a cui voglio chiedere, Borghi, ma molti ci dicono io privato ho un ticket da 5,29 euro e quindi non capisco perché gli statali si lamentino della eventuale discesa a 7 euro e l'uniformità dei ticket restaurant, oppure non c'è meritocrazia nella pubblica amministrazione, c'è sempre questa contrapposizione tra chi lavora nel privato e vede i panda pubblici come una sorta di categoria di privilegiati da preservare. Sono lamentele giuste e condivisibili quelle del settore privato, che vedono per esempio una riforma del lavoro applicata a loro e non si capisce bene se sarà applicata con deroghe al privato, al pubblico invece? No, allora dunque, non è giusta finché rimane nel ma lui non deve prendere più di me, perché quello è una cosa che non va bene neanche nel privato, cioè capita. È giusta nel senso in cui divide un privilegio, e secondo me molti posti di lavoro statali sono oggettivamente un privilegio, ma l'indice è semplice, vale a dire basta fare un concorso per un posto del genere. E se per quel posto si presentano per due posti se ne presentano 200.000, è l'indice assoluto ed evidente, magari anche più qualificati di chi in quel momento quel posto lo sta detenendo, che quel posto è o troppo pagato o troppo tutelato o troppo appetibile per in qualche maniera, e quindi potrebbe essere fatto con delle paghe. È il sogno del posto fisso, dico, mi metto a posto. Sì, ma no? Un concorso non è una lotteria, quello che voglio dire. Cioè, nel senso, perché se io faccio dei concorsi dove si presentano in 200.000 e i posti sono due, sto facendo una lotteria, non sto facendo un concorso, no? Invece io dovrei andare a cercare una persona qualificata a condizioni di mercato. Per cui, insomma, da quel lato lì c'è sicuramente un privilegio. Dall'altra parte, però, se volete, io vi tiro fuori la sfera delle previsioni facili. La sfera delle previsioni facili questo dice che se noi dovessimo andare avanti sulla strada in cui siamo avviati, vale a dire Europa e tutti contenti, no? E simili, abbiamo scelto di aderire al Fiscal Compact. Fiscal Compact significa che noi dobbiamo ridurre il nostro debito pubblico fino ad arrivare al 60% in tempi rapidi. Ora, le tasse secondo me sono già sufficientemente alte sotto ogni tipo di standard mondiale, quindi è difficile che uno che dice si tocchi ancora fuori lì. Alzo ulteriormente le tasse. Le spese sono interessi sul debito pubblico e queste sono in aumento, perché lo spread questo è. Dall'altra parte ci sono i costi degli stipendi degli statali e le pensioni. Il resto, tutte le cose che su cui normalmente si punta il dito perché c'ho l'auto blu, c'ho il cose di questo tipo, è fuffa. Cioè sono piccole cose, tagliare del 20% l'auto blu, ridurre un attimo, sono quisquiglie. Ecco. Il bilancio statale non se ne accorge nemmeno. Il bilancio statale, che è fatto di macro voci, ha come due fonti di spesa molto evidenti e grandi, sono gli stipendi del personale a qualsiasi livello, quindi inclusi anche i politici, per sì, carità, sì, sì. Ma in generale quello, gli stipendi pagati dallo Stato e le pensioni, dato che le entrate sono incomprimibili, perché abbiamo già visto, no? Cioè non sono incomprimibili, sono inespandibili. Sì, certo, le tasse quelle sono. Oddio, non si può mai sapere, in Italia sul tema tasse non ci metterei mai la mano sul fuoco. Però... No, ma non importa, no, ma anch'io sono convinto che qualche sciocchezza la faranno, ma tanto non le pagano più, abbiamo già visto che il livello, ecco. Alzandoli più di tanto, no, otterranno l'effetto opposto, perché a un certo punto riusciranno a far diventare evasore anche chi non lo è, no? A un certo punto uno dice, se io ce la faccio pur facendo fatica a pagare 10, se io gli metto da pagare 20, sì. Questo dice, senti, io, io non pago ce 10. La faccio, da un limone si può spremere quello e poi no, non zero, perché chi a un certo punto decide che non ce la fa più a pagare le tasse, non paga 10 invece di 20, paga 0. Ah, quindi diminuisce pure. No, è evidente, a quel punto lì già si è visto, no, all'inizio con i gettiti che sono inferiori alle aspettative. Ah, sì, poi allora a quel punto lì. Le pensioni chiaramente sono state toccate, o meglio, la riforma c'è già stata, rimane insomma lì il punto, si cade sempre lì, gli stipendi. Sì, le pensioni sono state toccate, ma verranno toccate ancora, perché a un certo punto l'obiettivo finale, se io veramente dovessi perseguire questa strada, perché la gente pensa sempre, ma no, ma tanto prima o poi facciamo qualche altra cosa, facciamo qualche altra schifezza. Non esiste più, perché fino adesso, bene o male, i soldi si trovavano all'interno del bilancio dello sì. Stato, e se non si trovavano si stampavano. Adesso i soldi invece non ci sono più al nostro interno, dobbiamo chiederli agli altri, incredibilmente. E a quel punto lì poi non diventa finita anche la... Se ne saranno accorti anche i sindacati, cioè prima dovevano fare una bella pantomima, andavano lì con lo Stato, dicevano, facevano finta, facevano un po' di roba e poi l'aumento arrivava. Adesso non ci sono più i soldi, anche volendo, non glieli danno. No, ma mi faccio salutare anche il presidente della provincia di Torino, Antonio Saitta. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Eccoci buongiorno. Qua. Voi domani, credo, anche voi, come tutti, incontrerete... Sì, come regione comune. Il tema delle province è questo, è sempre solito. Allora, il ministro Patroni Griffi avrebbe individuato i tre criteri per i quali decidere se una provincia può sopravvivere oppure no, che sono superficie di 3.000 km quadrati, popolazione superiore a 350.000 abitanti e oltre 50 comuni presenti nel territorio. Ci risiamo, presidente, è l'ennesima pantomima di discussione, questa battaglia che non si capisce, voi che dite le province servono, i molti cittadini che dicono togliamole e non se ne fa nulla. Ma io credo che la proposta che è avanzata dal ministro, che tra l'altro è anche la nostra proposta, noi contrariamente a quello che si pensa siamo gli unici enti che abbiamo fatto una proposta di autoriforma. Soltanto 6 mesi fa abbiamo detto bene, ormai tutti ce l'hanno con le province, sappiamo che le province non risolvono il problema della finanza pubblica perché rappresentiamo soltanto l'1,25, ma siccome si è deciso di partire dalle province, partiamo dalle province e diamo un contributo al contenimento della spesa e quindi abbiamo proposto un'autoriduzione, abbiamo iniziato dal Piemonte, ci siamo trovati i presidenti della provincia, abbiamo detto vediamo come fare e abbiamo deciso gli 8 presidenti di ridurre le province dalle prossime elezioni da 8 ai 4. Questa proposta è diventata una proposta nazionale, la condividiamo, però abbiamo posto una condizione, non perché ci sentiamo forti, sì. Cioè dicendo la provincia incidono, ma come dicevo poco fa, poco, il problema è l'organizzazione dello Stato. Accorpando le province bisogna accorpare anche tutti gli uffici periferici dello Stato, che non sono soltanto le prefetture, le questure, ma anche tutti gli uffici periferici dei diversi ministeri, cercando anche di capire se hanno alcune senso, perché molte competenze che una volta erano dello Stato sono state trasferite alle regioni. Quindi se si accorpano le province e contemporaneamente si accorpano gli uffici periferici, perché ogni provincianato si è portato dietro tanti uffici periferici, se si accorpa tutto, no, allora abbiamo veramente un contenimento. Sì, perché chiaramente è la proposta questa dei criteri è che porterebbe da 107 attuali a 50 o forse 40 province, cioè sì. accorpando Pisa e Livorno. Monti vorrebbe accorpare Pisa e Livorno. Presidente Saitta, che succede? Stanno già tirando fuori le alabarde e le sciabole i pisani e i livornesi? Ma devo dire che le cose poi si, contrariamente a quello che si pensa, ormai noi è da un po' di tempo che ragioniamo sugli accorpamenti. Ero a Firenze, lì si parla già di Firenze, Prato e Pistoia, Lecco sa già che non potrà esserci, Verbania, Cuso d'Ossano, cioè è ormai in corso un processo che porterà realmente, non dico alla condivisione assoluta, ma c'è ormai una percezione che si possono avere dai comuni di scala, però lo Stato deve fare la sua parte, cioè noi diciamo, la pubblica amministrazione è quella che è, no? Abbiamo un processo di riforma della pubblica amministrazione, partiamo pure dalle province, ma deve tirarsi dietro l'organizzazione dello Stato, questo è il tema vero, allora incidiamo, perché dall'accorpamento delle province si potrà risparmiare di economie di scala, perché è chiaro che ci sono, no? Facendo delle province più grandi, all'incirca 1 miliardo, che sì, è una cifra consistente, sì, e dall'accorpamento degli uffici periferici almeno 2,5 miliardi. Poi noi abbiamo anche aggiunto una cosa che il governo ha accolto, l'altro giorno abbiamo fatto una lettera aperta, sì, al governo, sì, dove diciamo cogliamo questa operazione anche per contenere, se possibile ridurre enormemente il numero di tutti gli enti che sono stati creati, sì, regioni, che voi avete identificato in 3.127, credo. Sì, abbiamo preso i dati dal Ministero del Tesoro. Cioè, ora, togliere tutti questi enti che sono dei poltronifici per politici trombati, diciamo. Gran parte sono così, sono nati gli anni passati, cioè sono enti di diritto privato che svolgono funzioni pubbliche. Queste funzioni riportiamo all'interno degli enti e semplifichiamo il sistema, anche perché hanno un costo che è difficile quantificare, perché oltre ai costi della pubblica amministrazione, lì si possono eliminare tanti enti, c'è il problema che queste società normalmente aumenti di capitale, progetti europei, finanziamenti, assunzioni, direttori, sì, uffici di comunicazione, cioè lì c'è un mondo, mentre noi come dire, che abbiamo gli enti con tutti i difetti che hanno, regioni, province, comuni, siamo controllati. No, quello dice, quello è un vero e proprio poltronificio. Si fermi un attimo, Presidente, mi faccio dare le informazioni sul traffico, poi avremo con noi un ospite, il sindaco di Villa Franca, uno che dice io quando c'è da licenziare un dipendente pubblico lo faccio, ci spiegherà come. Il sindaco di Villa Franca è con noi, Mario Faccioli, buongiorno sindaco. Buongiorno. Buongiorno. Diventato famoso, celebre, l'ha invitato Oscar Giannino, ieri credo era sul Corriere della Sera, sì, intervista. Sì. Lei è uno che dice io quando c'è da licenziare un dipendente pubblico del comune, in questo caso lo faccio, e quanti ne ha licenziati? Diciamo che per motivazioni serie e preoccupanti, ovvero perché si rubava, tre. Poi altri per altre motivazioni. Cioè si rubava, cosa facevano questi? Allora, in pratica, appena arrivato sindaco, il primo che ho licenziato sostanzialmente abusava con le pratiche cimiteriali e quindi ha estorto al mio comune, per il momento certificato, quasi 250.000 euro. Accidenti. E si può... Poi? Poi un ragazzo ha preso sostanzialmente una tangente. E l'ultima che abbiamo licenziato la settimana, 15 giorni fa, l'ho beccata che usufruiva della legge 104 e invece di seguire un familiare che aveva dei problemi andava all'università, faceva dell'altro. E licenziata. E sempre tutti e tre licenziati immediatamente. E ha ottenuto, perché sa che poi ci sono i ricorsi, i giudici, il tribunale del lavoro, che spesso... A partire dal primo siamo in tutti e tre i casi ci sarà un procedimento comunque penale, perché dal momento della verifica Il tutto ha seguito anche un iter che è quello dei carabinieri, quindi hanno depositato un procedimento penale a loro carico oltre all'iter amministrativo. Per cui siamo in fase processuale e poi si vedrà, insomma. Ma senta, ma lei fa un qualcosa di eccezionale, nel senso che è fuori dalla norma secondo lei come amministratore pubblico, oppure gli altri potrebbero farlo e non lo fanno? O... Guarda, io non conosco le altre realtà, però non credo che il mio comune sia pieno di persone che voglio dire non fanno il proprio dovere. Credo che l'andazzo per cui la gente in questo periodo proprio non ne può più, perché la carenza del lavoro e vede il dipendente pubblico come fumo negli occhi, c'è da fare un distinguo dei dipendenti pubblici che lavorano, ce ne sono e bravi. Servono degli amministratori e dirigenti che verifichino quello che fanno i dipendenti pubblici. Quindi io non ho fatto niente di eccezionale se non applicarmi nel controllo, nelle verifiche che... Beh, però lei dice niente di eccezionale, però il fatto già che è assurda agli onori della cronaca, cioè la gente, i giornali parlano di lei come di un qualcosa che evidentemente il Comune di Villafranca si fa perché non si fa... Sa com'è in Italia, no? Poverino, sa com'è in Italia, poverino. E quindi prima di avviare le procedure si cerca sempre di risolvere i problemi in altro modo. Credo che sia questo il problema di fondo. Senta, visto che la sta ascoltando Giovanni Faverin, che è il segretario generale della CISL, Funzione Pubblica. Sì. Faverin, lei ci dica prima lei Faccioli con i sindacati com'è andata, quando ha intentato questi procedimenti? No, finora niente. Devo dire che l'unico contrasto che ho con i sindacati è molto semplice. Appena arrivato sindaco ho chiesto una collaborazione per avere la possibilità di premiare chi effettivamente dà il massimo e distinguerle da chi effettivamente non lo fa. E quindi che l'aspetto del premio incentivante potesse essere calato su misura sugli obiettivi che l'amministrazione si prefiggeva e chi li rispettava. Sì. Purtroppo nell'ambito sindacale locale, adesso quello nazionale non lo conosco, si cerca di andare a pioggia e pioggia sostanzialmente non dà i meriti a chi effettivamente... Infatti, torniamo a bomba, questo è il problema, Faverin. Anche il sindaco di Villafranca dice i sindacati propendono per dire avanti tutti, insomma, invece di premiare davvero quelli che meritano. Che ne pensa del sindaco di Villafranca, Faverin? Intanto so che è una persona che non solo amministra bene, ma è anche una persona molto attenta agli atti che fa la sua amministrazione. Non è un sindaco che arriva, prende i dirigenti, preparatemi questo, fatemi questo, e poi lascia tutto in mano ai dirigenti. Cioè è l'esempio di una persona che si legge gli atti, confronta le gare, si domanda il perché il dirigente gli propone un aumento o una diminuzione. Cioè fa il sindaco, fa il sindaco, è incredibile, ma fa il sindaco, voglio dire. Ma è una scrupolosità che mette una persona della comunità civile che si impegna in un compito delicatissimo come quello di amministrare con tutti i cittadini che giustamente chiedono e non sempre ci sono risorse. E lui tra l'altro conferma, l'ho appena detto, che quando ci sono illeciti, perché questo diventa problematico per gli altri bravi dipendenti, se un'amministrazione va fino in fondo, intanto aumenta il deterrente che nessuno possa fare furbo e mette in moto un principio di competitività, di competizione, di lavorare bene. Sulla produttività, voglio essere molto sincero, chi fa sindacato a livello locale si trova con i dipendenti che hanno, mediamente, facciamo un esempio, i dipendenti del comune di Villafranca hanno mediamente 500 euro di produttività di incentivi all'anno, ce l'hanno da tanti anni, da tanto tempo. Un meccanismo che dica a Faverin tolgo 1000 e do 2005 il suo collega, trova inevitabilmente il Faverin di turno, come il sindacato lo rappresenta, rischio di diminuire il suo potere d'acquisto. Sì, certo, no, ma è chiaro, il cellulare tra l'altro la sta un po' abbandonando. Sindaco, per concludere, lei ha trovato questa cosa, cioè dire non è che vuol togliere a qualcuno, oppure è giusto togliere a qualcuno per dare a chi merita di più, cioè fare questa sorta che potrebbe diventare una sorta di guerra tra l'uno e l'altro dei dipendenti suoi? Guardi, io vorrei far passare il principio che i dipendenti pubblici non sono dei malandrini e c'è tantissime persone che fanno veramente il proprio dovere con senso di rispetto di chi paga le tasse e con un'attività che è un servizio alla collettività e non è redditività, perché chi eroga servizi è il comune e non sempre hai, voglio dire, lo stimolo per fare di più perché non hai entrate. Devi dare un servizio, quindi l'aspetto sociale, l'aspetto economico che questi dipendenti fanno è straordinario. Non è giusto che ci siano all'interno dei dipendenti pubblici persone che lo fanno per il 27 del mese e non rispettano i propri colleghi, primo, e non rispettano nemmeno i cittadini che con le loro tasse pagano i servizi che dovrebbero tra l'altro avere. Ringrazio davvero tutti per essere stati con noi, potete riascoltarci su radio24.it e seguirci su Twitter @24mattino o @AlinoMilan. Grazie Alessandro Longoni in redazione e Carmelo Lauricella in regia. Domani.